Noi siamo veramente sgomenti perché non era mai successo che venissero impugnati i certificati in maniera retroattiva. Era accaduto che alcune procure in passato impugnassero i certificati subito dopo la formazione, ma è la prima volta che in Italia vengono impugnati intanto 33 certificati in blocco, ma addirittura di bambine e bambini che hanno 6 anni in alcuni casi. Quindi in una città come Padova, dove il sindaco ha sempre inviato alla procura gli atti dopo averli formati, quindi la procura ne era a conoscenza, non ha scoperto negli ultimi mesi che esistevano questi certificati. Fatto sta che la sincronicità con cui la procura impugna questi certificati pochi mesi dalla richiesta di piante dosi ci fa tremare i polsi. Significa che un ministro ordina e una procura esegue? Questo per me è la questione più grave dal punto di vista della tenuta democratica del paese. Oltre ad aver devastato le vite di queste famiglie, immaginatevi una bambina che ha un doppio cognome, che ha un fratello, una sorella e due mamme. Se dovesse passare la cancellazione, questi bambini non avranno più un genitore, ma non avranno più neanche i fratelli e le sorelle, perché magari sono stati partoriti dall'altra mamma, quindi spaccano le famiglie in due. Questi bambini avranno cognomi diversi, un'identità familiare diversa, si dovranno presentare tra fratelli con cognomi diversi. Come si spiega a un bambino di 4, 5 anni, 6 anni una cosa del genere? Io credo che stiamo veramente sulla scia dell'Ungheria, della Polonia e della Russia ormai. Prima potevano essere delle paure, delle esagerazioni, ora abbiamo la prova provata che è così e non credo si fermeranno qui. Torno su una cosa che hai già detto, ma insomma andiamo nello specifico. La procura di Padova si trincera dietro l'applicazione della legge, però appunto, come già ci dicevi, lo fa a molta distanza dalla nascita anche di quei bambini. C'è dietro un'iniziativa politica, quindi? Io leggo solo i tempi, ripeto. Quando la procura di Padova chiede i certificati al sindaco Giordano, quei certificati già li aveva e quindi questo è molto ridicolo. Giordano, come tutti i sindaci che registrano e registravano, ogni certificato veniva fatto e mandato alla procura. Ogni certificato, parliamo di 6 anni, e dopo 6 anni incredibilmente la procura di Padova cambia direzione. All'improvviso, in 6 anni non se n'è mai occupata e dopo 6 anni se ne occupa a 1 mese dalle circolari piante dosi, a 6 mesi dall'insediamento di questo governo? Beh, io non sto lanciando nessuna accusa, ma i tempi parlano da soli e soprattutto inviterei anche i giornalisti. Sto leggendo tanti pezzi in questi giorni a fare le domande giuste. Ho letto oggi una intervista sul Corriere della Sera ad Ostellari che ha dichiarato che questi provvedimenti sono fondamentali per arginare la gestazione per altri. Ecco, un giornalista serio e preparato avrebbe chiesto ad Ostellari: ma come mai parla di GPA quando qui parliamo di 33 certificati di nascita che riguardano solo figli di coppie di mamme? La scusa della GPA, lo spauracchio della GPA, che è ovviamente uno spauracchio, non regge neanche nel caso di Padova. Sono tutte donne, sono tutte procreazioni medicalmente assistite eterologhe, tale e quale a quelle fatte legalmente in Italia dalle donne eterosessuali, dalle coppie eterosessuali. Quindi in una coppia eterosessuale si fa la procreazione eterologa, si va a registrare il figlio come figlio della coppia. Lo fai da donna, non lo puoi fare. Quindi è inutile che continuano a dire la legge, la legge. La legge è profondamente discriminatoria. E non è che quando una legge è discriminatoria e ingiusta vada santificata. Devono vergognarsi. Ieri è iniziato il dibattito della proposta di legge Varchi, che vuole criminalizzare la GPA. Nello stesso giorno inizia il dibattito Varchi, nello stesso giorno arriva il primo di 33 impugnazioni, casuale anche questo evidentemente, e abbiamo risentito nelle aule del Parlamento le stesse bugie vergognose e attacchi vergognosi della legge, del dibattito del 2016 sulla legge Cirinnà, sulle unioni civili, sempre e comunque contro i bambini. Adesso addirittura ci dicono che noi ci schermiamo dietro i bambini dopo aver violato la legge. Ma quale legge ho violato io? Ho fatto un'eterologa in Spagna che mia sorella eterosessuale può fare in Italia a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa dovevo fare? Tutto questo ci dice solo una cosa: PDL Varchi, ora questo governo, nella sua applicazione di un piano sistematico, vuole cancellare l'omogenitorialità in Italia. Non ci sono altre parole per dirlo, lo stiamo dicendo da tutti i palchi dei Pride. Per me questa è una sterilizzazione politica. Non posso adottare, non posso riconoscere figli alla nascita, non posso fare la PMA, non posso fare la GPA neanche all'estero. Che cosa ci dice? Siccome non ci possono mettere su un tavolo operatorio e sterilizzarci, almeno non ancora, lo stanno di fatto facendo.